Parliamo di salute mentale, un tema sempre più dibattuto dall'inizio della pandemia ad oggi, ma anche nelle ultime settimane, negli ultimi mesi. Si è parlato di bonus psicologo, che poi è stato stralciato dalla legge di bilancio. Si parla anche dell'introduzione della figura dello psicologo di base. Per approfondire questi temi, noi siamo al telefono con Gabriele Raimondi, presidente dell'Ordine degli Psicologi dell'Emilia-Romagna, che innanzitutto saluto. Buongiorno. Buongiorno e buongiorno a tutti gli ascoltatori. Anche l'Ordine negli ultimi giorni, insomma, ha evidenziato la necessità dello psicologo di base. Perché è necessario? È necessario per dare una risposta strutturale ai tantissimi bisogni psicologici dei cittadini. Noi abbiamo un aumento importante di richieste di interventi da parte degli psicologi sia nel servizio pubblico, diciamo, lo scorso anno i dati della regione ci dicono che sono state erogate circa 10.000 prestazioni, quindi 10.000 interventi. Abbiamo un aumento importante nelle richieste nel privato. Abbiamo cittadini che segnalano problemi legati all'ansia, problemi legati alla depressione, problemi di gestione delle relazioni, abbiamo cittadini che hanno perso il lavoro e hanno bisogno di un accompagnamento per reinserirsi nel contesto produttivo, abbiamo la scuola, abbiamo tantissime realtà che ci segnalano una pressante richiesta di intervento psicologico. Da qui la richiesta di strutturare in modo continuativo interventi sul territorio, e lo psicologo di base, lo psicologo delle cure primarie, può essere assolutamente una figura centrale in questo tipo di intervento. Ecco, quindi insomma gli interventi che già mettono in campo i dipartimenti di salute mentale non bastano più a fronteggiare la domanda? Gli interventi che mettono in campo i centri di salute mentale, che mettono in campo le istituzioni, sono assolutamente importantissimi, e noi abbiamo la fortuna di vivere in una regione che al benessere psicologico dei cittadini ha sempre prestato una grande attenzione, e quindi abbiamo interventi di alta qualità, e di questo possiamo solo essere orgogliosi e riconoscerlo. Da questo punto di vista il bisogno che noi rileviamo invece è oggi superiore a quella che è l'offerta che si può dare, quindi tantissimi interventi che vengono messi in campo sono oggi inadeguati a rispondere pienamente al bisogno. C'è bisogno di investire maggiormente, e uso non a caso il termine investire, perché le ricerche, gli studi ci dimostrano come intervenire sul benessere psicologico dei cittadini sia non un costo ma un investimento, perché poi va a ridurre il numero di ricoveri, va a ridurre l'uso degli farmaci, va a migliorare le prestazioni anche professionali delle persone. Quindi si tratta di investire risorse oggi per ridurre le spese domani, ma non tra 10 anni, domani, tra pochissimo tempo. Quindi quando mi dice non basta, sì, non basta, perché la richiesta è tantissima. Abbiamo una regione che ha compiuto sforzi veramente encomiabili e importanti nella gestione della pandemia. Non possiamo però considerare la salute psicologica come secondaria rispetto alla salute fisica, e quindi abbiamo bisogno, e i cittadini ce lo chiedono, di interventi strutturali e importanti anche per aumentare l'offerta di servizi psicologici. Io facevo riferimento in apertura al dibattito che c'è stato attorno al bonus psicologo. Mi pare di capire dalle sue parole che insomma magari sarebbe stato utile, ma non come dire risolutivo, perché c'è bisogno di interventi proprio strutturali. Assolutamente sì, e su questo c'è una concordanza di visione anche con la Regione e con l'assessorato. Abbiamo bisogno di poter garantire nel tempo ai cittadini un diritto al benessere psicologico, agli interventi di cura psicologica che sia strutturale. L'intervento del bonus psicologico ha il vantaggio di portare l'attenzione a una tematica, ma rischia di essere un intervento una tantum e andare a drenare, diciamo così, risorse da quelli che sono invece interventi più strutturali e continuativi nel tempo. Su questo c'è una visione concordante con quella della regione, e questo mi fa veramente molto piacere. È chiaro che questi interventi strutturali poi devono essere sostenuti anche economicamente, perché l'intervento professionale dello psicologo ha una ricaduta importante per il benessere dei cittadini, e questa va valorizzata e sostenuta. Tornando alla questione dello psicologo di base e parlando di regioni, ci sono altre regioni in Italia che hanno già intrapreso questa strada? Sì, abbiamo l'esempio della Campania. Poco tempo fa è stato attivato questo percorso con un investimento importante. Abbiamo l'esempio del Lazio, che sta attivando risorse ne stanno parlando in Sicilia, ne stanno parlando in diverse regioni d'Italia, proprio perché l'intervento di dello psicologo di base, lo psicologo delle cure primarie, è diventato ormai un modello di intervento capace di accogliere i bisogni dei cittadini e anche di orientare i cittadini alle tante risposte, ai tanti interventi che sono garantiti dal nostro servizio sanitario. Noi abbiamo in Emilia Romagna tantissime anche opportunità, non sempre i cittadini ne sono a conoscenza, non sempre sanno utilizzarle o non sempre hanno l'accompagnamento a utilizzarle nel modo corretto, per cui il lavoro che noi abbiamo proposto, quello su cui noi siamo a disposizione per collaborare con l'assessorato regionale, è anche fare un percorso che vada a analizzare, valorizzare le esperienze che si stanno portando avanti, che si stanno costruendo in altre regioni, per costruire un modello tipico dell'Emilia Romagna. L'assessore Donini ha evidenziato come questo si vada a collocare nella presenza dello psicologo all'interno delle case della salute, delle case di comunità. Questo è assolutamente condivisibile. Quello che noi abbiamo cercato di portare avanti è l'idea di una presenza di risorse ulteriori, quindi non di spostare psicologi già ad oggi interni alle istituzioni, ma di aumentare il numero di servizi, quindi di professionisti che possono dare risposta ai bisogni dei cittadini. Le case di comunità e le case della salute sono assolutamente un contesto importante in questo, ma contemporaneamente, ed è assolutamente importante organizzare e riorganizzare e discutere insieme all'assessorato le modalità organizzative interne delle diverse ASL, dei diversi distretti, valorizzando in questo l'autonomia professionale e i percorsi di cura promossi dagli psicologi. Quindi c'è da ragionare sullo psicologo di base, psicologo delle cure primarie, c'è da cogliere l'occasione, ed è un'occasione importante, per riflettere insieme su tutta l'organizzazione dei servizi psicologici sul nostro territorio regionale, partendo, e questo ci tengo a sottolinearlo, da una realtà che è comunque di grande interesse e di grande intervento da parte della regione. Quindi noi partiamo, come si dice, saliamo sulle spalle dei giganti, non partiamo da una situazione di non attenzione, anzi, partiamo da una situazione di forte attenzione, che però richiede oggi ulteriori investimenti per rispondere davvero ai tanti bisogni dei cittadini. E proprio per, come dire, dare anche così maggiormente l'idea a coloro che ci stanno ascoltando in questo momento, come potrebbe funzionare lo psicologo di base, proprio almeno appunto, lei parlava di diversi modelli, insomma, qual è il modello che avete in mente voi? Lo psicologo di base potrebbe funzionare all'interno delle case delle comunità e delle case della salute, con l'accesso diretto dei cittadini, potrebbe essere coinvolto, potrebbe essere attivato, diciamo così, grazie all'intervento del medico di base o anche dei servizi del territorio, può accogliere e fare i primi interventi, diciamo così, con le famiglie o con le persone segnalate, sia per dare una risposta immediata, sia per fare da orientamento e quindi da accompagnamento all'utilizzo dei servizi del territorio. Abbiamo la possibilità, abbiamo tantissime persone che sono in una condizione non così grave oggi da essere seguite dai servizi, ma in una zona che possiamo definire una zona grigia, rispetto alla quale un intervento anche immediato e di orientamento, di accompagnamento, di sostegno può essere determinante e andare a prevenire, quindi il tema della prevenzione è assolutamente importantissimo, una caduta in situazioni molto più gravi. Allora, lo psicologo di base in questo senso diventa da un lato la prima risposta a un bisogno di cura e di terapia, ma contemporaneamente è un intervento di sostegno delle risorse e di empowerment, si dice in psicologia, quindi di potenziamento delle risorse. Dipenderà anche dal tipo di investimento di ruolo che la regione vorrà dare. Anche nella strutturazione di equip multiprofessionale all'interno delle case della salute, dove al centro si è messo il cittadino e quindi il pensiero della persona che ha un bisogno, che ha una necessità, sulla quale si vuole lavorare, la lettura dell'equip può essere assolutamente completata, implementata e arricchita anche da un intervento di tipo psicologico. Quindi da un lato l'intervento diretto col cittadino, dall'altro lato un lavoro di equipe con altri professionisti sanitari che vadano a rispondere a 360 gradi al bisogno individuale. Certo, quindi insomma il benessere di una persona intesa in senso olistico, insomma, non diviso appunto per pezzetti, sì, come spesso sconta la nostra medicina. Assolutamente sì, ormai la scienza ci dice che è superato il modello che separa la psiche dal corpo, anzi dobbiamo andare assolutamente verso un modello olistico e verso un modello di persone inserite all'interno del proprio sistema, quindi assolutamente sì. E da questo punto di vista io rilevo con grandissimo piacere la sempre più stretta collaborazione che stiamo portando avanti anche come Ordine degli Psicologi con altre professioni sanitarie. Noi siamo entrati, adesso questo va un po' a latere, ma siamo entrati nel CUP Emilia Romagna, nel comitato che riunisce tutti i professionisti dell'Emilia Romagna, e all'interno di questo la collaborazione con altre professioni sanitarie è sempre più stretta e l'interlocuzione anche coordinata con la regione è sempre più importante, per cui io sono assolutamente favorevole all'idea di un modello di intervento che vada a valorizzare le diverse professionalità integrandone le diverse competenze, perché questa è la realtà dell'essere umano, diciamo. Approfitto della sua disponibilità per una riflessione forse anche un po' più generale, perché uno dei problemi all'accesso all'assistenza psicologica a volte è anche quello economico, insomma, quindi la figura dello psicologo di base potrebbe favorire l'accesso? Assolutamente sì, nel senso che noi abbiamo nel nostro territorio regionale una grandissima offerta di professionisti con differenti e abbiamo anche come ordine facilitato e lavorato per rendere sempre più vicina la comunità professionale ai cittadini, ad esempio modificando il nostro sito e inserendo, questa faccio una piccola parentesi, nel nostro sito, nel sito dell'Ordine degli Psicologi dell'Emilia Romagna, è possibile verificare gli psicologi, i professionisti iscritti all'albo anche con la geolocalizzazione vicino a sé. È fondamentale per i cittadini verificare che il professionista al quale si rivolgono sia un professionista effettivamente iscritto all'albo e quindi capace di tutelarli anche da un punto di vista deontologico e di intervento. Detto questo, è vero che per alcune persone l'intervento professionale di un professionista può risultare economicamente oneroso, almeno nel breve termine. Poi vale sempre il discorso che è un investimento sulla propria salute ed è un investimento che spesso, tra virgolette, ripaga ampiamente. Ma non possiamo negarci che per alcuni può essere un investimento importante dal punto di vista economico. La capacità, l'implementazione di un servizio sanitario capace di rispondere sempre di più ai bisogni dei cittadini va a rispondere sicuramente anche a questo tipo di bisogni e di esigenze, che sono assolutamente legittime. E magari trovandosi lo psicologo di base che magari lavora in team con il medico di base si supera anche uno degli altri problemi che riguarda la salute mentale, cioè il tema dello stigma, no? Magari le persone hanno bisogno di aiuto ma non si rivolgono perché a livello culturale e sociale c'è un po' lo stigma nei confronti della salute mentale. Sì, devo dire che per la mia esperienza e per quello che vedo al confronto, finalmente si sta iniziando a superare questo tipo di modello, questo tipo di preoccupazione. Le persone sempre di più trovano normale richiedere un sostegno psicologico o volere conoscere meglio se stessi o lavorare sui propri aspetti psicologici, così come si è sempre fatto per l'aspetto fisico. E quindi così come vado dal podologo, così come vado dal dentista, vado dallo psicologo perché ho bisogno di conoscere meglio me stesso e di migliorare certi miei elementi o fattori o certe mie situazioni relazionali o qualunque cosa sia. Ancora in parte esiste questo stigma, per cui l'accompagnamento, la collaborazione con altre figure può facilitare l'accesso delle persone a rendere sempre più normale il rivolgersi allo psicologo, questo assolutamente sì. Io la ringrazio per la sua disponibilità e le auguro buon lavoro e buona giornata. Grazie a lei, buona giornata agli ascoltatori e quando avete necessità io sono sempre qui, siamo sempre qui come ordine a disposizione dei cittadini. Certo, grazie, arrivederci. Grazie ancora, buona giornata.